Pronto, ci senti, Cri? Sì, molto poco, però... Allora, sì. Voi siete in allora, corteo? Siete durante... Allora, siete... vi faccio un po' resoconto di quella che è stata la giornata, okay. Perché adesso siamo un po' fermi nella una delle vie principali del centro di Londra, che è Piccadilly, perché c'è stata l'occupazione di uno di una catena, cioè di un negozio, di una catena, una delle più famose che ci stanno a Londra, che è Fortnum Mason, proprio su Piccadilly, diverse persone sono entrate... nel negozio, sono salite sopra e hanno messo striscioni appunto contro la polizia che ha comunque circondato e presidiato tutta Londra, contro Cameron e tutte le leggi restrittive, economiche restrittive che sta facendo, i tagli che stanno facendo il governo britannico, che sta facendo nei confronti soprattutto all'iniziato con il pubblico impiego, che poi passare alla scuola, all'università eccetera, e stanno chiudendo. Dov'è Daniel? Daniel! Aspetta. Come dire, il bello della diretta. Sto arrivando in questo momento e quindi mi devo un attimo allontanare. E niente, vabbè, diciamo che la giornata è stata abbastanza eccola. No, diciamo che le giornate di oggi e domani vedranno molte mobilizzazioni a Londra e non solo, proprio sulla questione della crisi, delle misure restrittive che il governo sta facendo. La mobilitazione è stata enorme, Londra è stata praticamente invasa di gente, e ci sono stati non soltanto tutti i sindacati che sono venuti, diciamo tutta Hyde Park sono stati montati diversi palchi. Sono stati comunque appunto le unioni sindacali che sono venuti da tutta l'Inghilterra, non soltanto da Londra, e hanno fatto insomma pullman eccetera, e devo dire la partecipazione è stata veramente veramente molto alta, insomma, per chi conosce Londra, anche quello che succede in Inghilterra, dalla fine dello scorso anno che c'erano state sì diverse manifestazioni, gli studenti eccetera, questo è il primo momento di questo nuovo anno in cui agli studenti e quindi ai tagli all'università eccetera si è aggiunto anche tutto il mondo lavorativo, e devo dire insomma che oggettivamente è venuta tantissima gente in questo momento. Poi parallelamente alla grande manifestazione dei sindacati eccetera, ci sono stati ovviamente tutto il movimento degli anarchici, degli studenti che si sono mossi, anche dei queer, dei pink, che hanno fatto diversi blocchi. Qua la polizia funziona così, comunque la polizia chiude tutto quanto, per cui è abbastanza diverso da come facciamo noi, insomma, di sit-in o cose. Pronto? Di sit-in eccetera, siccome qui chiudono le piazze, no? C'è il famoso, avete visto, ma ho visto anche le immagini in televisione, chiudono proprio completamente, circondano i manifestanti e non li fanno più uscire dai luoghi dove si concentrano, per cui creano dei blocchi in cui si controllano a vicenda e vanno in giro per la città facendo delle azioni. Nel corso della giornata, stamattina alle 10:30 ce ne sono state tantissime in diverse parti della città, e fino a che adesso si è concentrato tutto appunto nel centro di Londra, da Oxford Street a Piccadilly, e si è deciso appunto di stare al di là della manifestazione dei sindacati, che è comunque finita, tutti gli studenti, tutto il movimento un po' più anarchico si è concentrato qua per portare avanti appunto questa occupazione, che devo dire se un momento sembrava che stesse finendo perché la polizia era entrata, aveva chiuso le finestre, però i ragazzi continuano insomma a stare sul tetto, per cui l'occupazione continua ad esserci. Ci sono stati dei momenti appunto, come avete sentito prima, di tensione, ma la piazza ancora non è stata chiusa e si continua a rimanere qua, e devo dire insomma che ci sta tantissima gente. Si pensa che questo appuntamento del 26 marzo è stato dato come un appuntamento di ben 24 ore di manifestazioni, per cui si pensa che durerà fino a tutta la notte, ci saranno azioni, occupazioni eccetera. Evidentemente insomma, vista la partecipazione enorme, quello che sta succedendo in Inghilterra, è emblematico, perché sicuramente insomma tutto un welfare che lo Stato britannico ha sempre garantito in questa città principalmente, ma anche in tutta la Gran Bretagna evidentemente c'è qualcosa che sta anche qui crollando. E per cui niente, questo è quanto. Devo dire che il tema della guerra e di quello che sta succedendo in Libia non è molto presente negli strisceni che ho visto o negli slogan che ho sentito, principalmente qui ovviamente contro la polizia, contro anche questa tipologia di repressione che ha la polizia qua molto forte, e contro Cameron nelle sue politiche dei tagli. Sì, infatti questo era un po' il tema della giornata. Io propongo propongo di risentirci a questo punto anche domani. Sì, o più tardi, diciamo che qui io non so di che succede in radio, però ecco, sicuramente il tutto continuerà ad essere, cioè continuerà anche nel pomeriggio, nella sera, eccetera. Per cui se succede qualcosa ci sentiamo, altrimenti domani possiamo fare un bilancio di tutto quello che è successo in questa giornata. Perfetto, ti ringrazio, un abbraccio. Allora, grazie a te, ciao. Ciao, ciao. Allora, a proposito di quello che diceva la nostra corris-